Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Su che furgone ci metterà Maurizio Möbius? Lo dobbiamo chiedere a lui. Ancora pochi secondi, benvenuti a questa puntata di Möbius e vi portiamo in Siberia. Adesso i titoli. È partita la spedizione Overland 2010. 13.000 chilometri battuti da veicoli elettrici intelligenti in grado di garantire la guida senza pilota e senza combustibili fossili. I bambini superdotati in matematica. Individuarli, valutarli e promuoverli. Un problema complesso e controverso della pedagogia contemporanea. Se pesassimo tutte le cellule HeLa utilizzate per la ricerca biomedica dagli anni 50 ad oggi, raggiungeremmo 50 milioni di tonnellate. Vi raccontiamo la storia della sfortunata donna che ha generato queste cellule immortali. Cigno nero, cigno bianco, la tragedia dell'11 settembre. Si poteva prevedere? Beppe Tenti, buonasera. Buonasera a tutti, anche se qui in Siberia il tempo dà l'impressione che sia mattino presto. Cioè? Ma che ore sono adesso lì? No, è mattino presto. Voi dite sera, ma quando è sera da lì qui è quasi mattino presto. Certo. Abbiamo 5 ore di differenza. Senta, e com'è il tempo? Piove, brutto, c'è sole? No, il tempo atmosferico qui è variabilissimo. Ieri ha piovuto, poi è andato a -1, pareva dovesse nevicare, improvvisamente oggi è venuta fuori una giornata serena con quelle nubi bianche appese al cielo che fanno un bel vedere. Va bene, su che furgone ci mette? Vi mettiamo su furgone 2 o 4 a seconda di quelli che abbiamo, che scorrono, perché i porter della Piaggio sono 4. Vabbè. E questi furgoni seguono il 2 e il 4 per addestramento. Adesso lo spieghiamo bene. Allora Maurizio, che cos'è? Facciamo il punto, come dire. Allora, il signor Beppe Tenti è noto per essere il capo carovana di Overland. Che è quella strana, simpatica colonna di camion arancioni che attraversa di solito 1 o 2 continenti alla volta, possibilmente a marce forzate. Questo è uno dei misteri, ma anche degli elementi di successo della spedizione. Ebbene, Overland è in viaggio anche in questo momento, adesso si trova in Siberia come abbiamo sentito, un viaggio che va da Milano fino a Shanghai, dove la spedizione dovrebbe giungere verso la conclusione dell'Expo per consegnare un giorno prima. Ah, perfetto, il giorno prima della fine, per consegnare, Tenti, poi lo spieghiamo bene, una specie di messaggio, un messaggio simbolico, perché questa volta Overland, oltre al solito viaggio avventuroso, è anche un esperimento scientifico. Ci sono nella carovana 4 furgoncini Porter Piaggio elettrici, e in più si tratta anche di mezzi dotati di un sistema di guida molto avanzato, che è in grado di guidare da solo. Insomma, il messaggio per Shanghai è che anche noi italiani ogni tanto siamo... Facciamo delle cose di frontiera. Esatto. Ma allora, pirotecnici. Abbiamo già detto, ecco, dove si però trova. Però non dimenticate che il motivo di Shanghai è perché l'esposizione universale che è in atto in questo momento ha come titolo Better City, Better Life. Certo. Quindi Better City, Better Life di chi vorrebbe avere nelle città esclusivamente mezzi elettrici, che oltre che non fare inquinamento da gasolio o da benzina, non fanno inquinamento acustico, perché se non silenziosi cosa vuole di più. Certo. Ecco, a proposito, parliamo di questi porter elettrici, perché appunto questo è anche un viaggio sperimentale e non è che le difficoltà, da quello che ho capito, insomma, non mancano. Lei prima in qualche modo l'ha accennato, ne avete 4 di questi porter, ma viaggiano solo 2 alla volta, è così? Esattamente, le spiego brevemente come funziona la spedizione. Non è che un porter fa tutto il viaggio, ci sono 4 porter e si alternano 2 per volta a viaggiare, perché il porter va benissimo, ma c'è tutta la struttura che è stata fatta dall'Università di Parma, dalla Vislab, che è uno spin-off dell'Università di Parma, che consente al secondo mezzo di andare senza la guida normale, tradizionale, giro il volante, schiaccio il freno. Il secondo mezzo è guidato in automatico qui dal primo mezzo, perché deve seguire una traccia e le strade sovente qui non hanno né il guardrail né la striscia bianca. Allora, diciamo che sono le uniche indicazioni che le televisioni, le sette televisioni, le telecamere, di bordo, sì, riescono a leggere, comunicano e danno la strada. Certo, questo diciamo che era il secondo aspetto interessante, cioè c'è questo sistema di guida per cui il furgone davanti riesce anche a guidare da solo se ci sono queste condizioni e quello dietro invece segue la sagoma di quello davanti. Era lì che ci voleva mettere, vero? Ma davanti non è che noi viaggiamo in certi paesi dove le persone magari al mercato sono 3.000 e sono loro sì che vanno, oltretutto non sentendo il rumore non si muovono. Per esempio c'è stata una persona che ha attraversato lo spazio di 5-6 metri tra i due porter e il porter automatico dietro si è bloccato da solo, prima ha fatto una trombata e ha suonato il clacson e poi ha bloccato tutto perché la persona è stata un po' inorridita dal vedersi arrivare addosso un mezzo giallo. Ha funzionato, però perché ha funzionato bene. I porter sono arancioni, mentre i camion di supporto questa volta, proprio per differenziarli, li abbiamo messi bianchi. Ah, ho capito, perché insomma i capi spedizione sono quelli elettrici. Però di questi elettrici abbiamo detto, ci siamo dimenticati di dire una roba, che viaggiano a due perché due bisogna anche ricaricarli durante il viaggio e qui insomma viene fuori il limite dell'elettrico. Che però ovviamente su un percorso di questo genere è comprensibile, in città si stanno attrezzando le persone. Allora praticamente Overland è una sperimentazione molto avanzata di come possono funzionare dei veicoli elettrici e anche con prestazioni complesse e questo comunque è un prodotto italiano. Bravi. Siamo bravi, ma diciamo che la complessità di questo marchingegno che abbiamo messo in piedi è nota in Italia perché se ne parla per radio, che è nota in Russia perché è venuta la Reuters, è venuto Associated Press 3 volte, hanno mandato servizi dappertutto, però si dà il caso che al confine tra l'Ucraina e la Russia i doganieri non avessero visto questi servizi, non avessero visto le centinaia di articoli sui giornali. Si sono tenuti fermi i russi 24 ore perché non capivano cosa fossimo arrivati a fare con delle macchine che non fanno rumore, non fanno il pieno, non fanno niente, solo che vanno. Vanno con dei pannelli solari sopra che però non caricano le batterie che ci sono sopra, ma i marchingegni, i computer e queste cose. E siccome una macchina che ha 7 televisioni per vedere, ha dei sistemi direzionali, dei sensori, loro mai l'avevano vista, non l'aveva registrata, ci hanno tenuto lì 24 ore. È già buona che non vi hanno dato del polonio, nel senso che vi avranno preso per dei vi avranno preso per degli agenti della CIA o qualcosa del genere. No, più che agenti della CIA, James Bond in edizione micro. Ma in quanti siete in tutti nella spedizione? Guardi, normalmente la carovana è formata da 4 ingegneri, a volte 5 dell'Università di Parma, più 2 autisti sempre dell'Università di Parma che si riciclano, praticamente 7 persone. Poi 9 persone della spedizione per i 3 camion di appoggio, compreso la bisarca, che è quella che trasporta i mezzi quando non viaggiano, i due porter che vengono ricaricati. Sopra la bisarca c'è anche il generatore di corrente che purtroppo, visto che le batterie hanno una durata limitata hanno ancora inventato pannelli solari atti a caricare le batterie di una macchina di questa fatta, è chiaro che abbiamo ancora il sistema tradizionale. Il gasolio nel generatore, carichiamo e andiamo via. Ovvio. Senta, ma è vero che a un certo punto si era anche fatta strada l'ipotesi di portarvi dietro 400 metri quadri di pannelli fotovoltaici? Ma come pensavate di fare? 400. Questo è... sarebbe stata una valida soluzione, se non che, tolto la stagione solare nella parte bassa della Russia, Rostov, Kiev, eccetera, qui ha incominciato a essere nuvolo, quindi ha voglia. Se si fosse deciso e se la tecnologia delle batterie fosse arrivata al punto di trattenere una carica per almeno per la durata, per una spinta elettrica del mezzo di almeno 120 km, quando invece ne fanno massimo 70, evidentemente avremmo dovuto, nel caso di usare pannelli solari, avere un'area di 400 metri pieghevole, eccetera, eccetera, che l'avremmo infilata in appositi spazi dei camion che sono di supporto e l'avremmo trasportata, montata avanti e portato avanti le persone per tutta una giornata, quelle atte ma altro alla carica dei mezzi. Altro che blocco a frontiera, lì dentro vi arrestavano tutti. Sì. No, mi viene in mente che queste cose si fanno nello spazio, che però è un posto che appunto si chiama spazio dove c'è molto spazio. Il vuoto è consistente. Allora, arrivano a Shanghai un giorno prima, quindi quando è? Credo, è ottobre. No, noi arriviamo a Shanghai il 28 e Shanghai chiude il 30. Okay. Il 28 ci sarà una manifestazione perché hanno stabilito che per la città di Shanghai, che ha Better City, Better Life, l'arrivo proprio nel finale di macchine italiane sfiziose che non fanno rumore, non inquinano, addirittura non hanno neanche l'uomo che respira, soffre e sbuffa perché è in colonna, evidentemente è una cosa simpatica e probabilmente ci riservano una sorpresa. 28 ottobre? 28 ottobre. Sì. Va bene. Adesso chiudiamo, qual è la prossima tappa, prossimo paese che attraversate quindi? Andiamo, domani c'è una manifestazione qui a Yekaterinburg, dove ci troviamo in Siberia, domani andiamo, è interlocutorio per arrivare dopodomani a Tiumen, Omsk, Novosibirsk, Barnaul, e poi entriamo in Kazakistan e andiamo a Almaty. Buon viaggio, Tenti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti i vostri spettatori che hanno la pazienza di vedere queste cose e di sentirle. Federico, per me un posticino su Overland non c'è. No. Chiara Albicocco, è la prossima edizione di Overland. Che devo aspettare il 2012. Sì, un altro che non anno. Si sa neanche se ci sarà. Non sappiamo nemmeno dove va, però c'è già un posto per te. Va bene, prendo il pacchetto chiuso. Allora, ragazzi plus dotati, quelli molto bravi a scuola, di solito sono interessanti questi casi per le materie scientifiche, ma non... Soprattutto in matematica. Soprattutto forse, in matematica. Parliamo di ciò con Anna Maria Roncoroni. Buonasera Anna Maria. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il talento matematico nei ragazzi plus dotati è il titolo di un articolo che è uscito sull'ultimo numero di Lettera Matematica, edito, curato dal Centro Pristem dell'Università Bocconi. Ragazzi, ragazze plus dotate, cioè giovanissimi che hanno però, manifestano delle grandissime doti, in particolare per esempio in matematica. Delle capacità fuori dal normale. Fuori proprio dal normale. Bisogna riuscire a individuarli questi ragazzi? Sicuramente è molto importante, soprattutto in età precoce, quindi il nostro lavoro infatti si articola dai 4 anni ai 16 anni. Quindi sembra molto presto 4 anni, però il talento matematico è uno di quelli, insieme al talento musicale, che si manifesta più precocemente e in modi a volte anche inusuali. Diciamo che, anzi, una delle difficoltà dei bambini che hanno uno spiccato talento matematico è adattarsi ai ritmi della scuola, perché molto spesso hanno un pensiero e un modo di ragionare che non è quello solito. Che viene utilizzato, diciamo, nei programmi, che viene proposto dagli insegnanti. Quindi a volte capita anche che proprio vengano visti male. O non vengano individuati affatto, credo, no, dagli insegnanti. Non vengano individuati, anche perché bisogna dire che gli insegnanti in Italia non sono preparati a questo, non studiano assolutamente per questo, nel senso che nei vari programmi sia universitari che la SILSIS, quella, insomma, ora non c'è più, però la scuola che ha prodotto, praticamente ha dato l'abilitazione agli insegnanti, purtroppo non viene proposta come materia di studio e quindi gli insegnanti non sanno bene che cosa sia e cosa si debba fare. Ecco, questa è una cosa molto importante da dire. Io, fra l'altro, Roncoroni, voglio ricordare che l'articolo l'ha scritto insieme a Daniela Miazza e Sara Peruselli, siete tutte e tre psicologhe e partecipate, fate parte dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plus Dotazione. Quindi vi interessate non solo dei ragazzi e ragazze plus dotati in ambito matematico, ma come vivono questa loro capacità superiore agli altri, questi forse giovanissimi. Forse anche diversità, no? Un po' di diversità. Dall'articolo, no, sembra che abbiano dei problemi a volte a manifestare questa loro particolarità. Sì, però la parola diversità è la parola più appropriata, perché in effetti c'è da parte di questi bambini, ragazzi, poi la percezione di una diversità rispetto ai compagni. per un bambino essere diversi in meglio, in peggio, comunque essere diversi non è facile, perché comunque è un non sentirsi parte di un gruppo. E come si sa appunto dalla psicologia, è molto importante che i bambini si sentano parte di un gruppo. Quindi questo non viene vissuto sempre molto bene, perché poi anche gli interessi molto spesso sono diversi rispetto a quelli di pari età, dei compagni di classe, quindi questo è un altro problema. E quindi è difficile condividere, diventa più difficile condividere proprio. Infatti lo scopo dell'associazione è proprio quello di riunire insegnanti, genitori e ragazzi, perché avrà proprio una sezione dedicata ai ragazzi under 18, per far sì che tra di loro possano condividere interessi, curiosità, modi di pensare, che non sempre trovano, diciamo, un riscontro positivo con i compagni. Ecco, e questi ragazzi che non sono in fondo così pochi, nel senso che dall'articolo sembrerebbero almeno 2 o 3 su 10, quindi non pochissimi. Cosa potrebbero fare poi durante il percorso scolastico? Avere degli insegnamenti separati oppure comunque convivere con gli altri o fare un corso di studi avanzato? Non so, forse all'estero sono più avanti di noi in questo. Molto, molto più avanti di noi, sicuramente. E allora, diciamo che all'estero si lavora addirittura sul top 10%, quindi 10 ragazzi su 100 vengono inseriti nei programmi dedicati speciali a loro. Noi lavoriamo indicativamente sul 5-8% della popolazione studentesca, ecco, quindi perché proprio non è sempre facile individuare, quindi si preferisce prendere qualcuno in più che qualcuno in meno, proprio perché i ragazzi sono anche in età di sviluppo, quindi non è sempre semplice, no? Individuare, avere un'idea precisa. Allora, all'estero sono molto molto più avanti di noi, fanno tantissime cose, ci sono le scuole dedicate a loro proprio, che è una proposta, diciamo, avanzata soprattutto, che si utilizza nei paesi, ad esempio in Germania, in Finlandia. Una specie di elite di geni, diciamo, sì. Stanno tra di loro. E questo non crea problemi? No, no, questo può anche creare dei problemi, come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. E ci sono anche dei contro, appunto. Il vantaggio sicuramente è quello di poter fare dei programmi ad hoc, quindi seguire un proprio ritmo di apprendimento, un po' infischiarsene tra virgolette del percorso scolastico tradizionale, però dall'altro lato noi viviamo all'interno di una società ed è importante integrarsi all'interno della società in cui si vive, che è fatta di tante persone diverse con caratteristiche diverse. Poi se no si rischia di fare come le scuole dell'Unione Sovietica, no? Dell'epoca, insomma, del secolo scorso, in cui veramente vi era un'attenzione maniacale all'eccellenza, sì, e all'isolamento proprio di, sì, questi, sì, venivano isolati questi ragazzi, sì. Questo non è positivo. Invece diciamo che l'obiettivo forse più importante è che questi ragazzi, che comunque sono super dotati, possano in qualche modo, tra virgolette, sfruttare le loro capacità e metterle, insomma, a disposizione, fare qualcosa di utile e importante per la società, in una dimensione però socializzante. Certo, sì, assolutamente socializzante, questa è una cosa molto importante. I problemi in Italia sono vari. Uno, ad esempio, è la difficoltà a fare il salto di classe, nel senso che nel nostro ordinamento è previsto un solo salto di classe ed esclusivamente per i ragazzi nati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Quindi, non c'è la possibilità in Italia di passare, ad esempio, dalle elementari alle medie, dalle scuole primarie alle scuole secondarie, alla terza media, certo. Sì, perché quando sono piccoli è giusto non fare assolutamente non fare più di un salto di classe, perché quando sono piccoli sono ancora piccoli emotivamente parlando, quindi hanno bisogno di stare con compagni di età simile comunque, perché potrebbero avere delle difficoltà a livello poi relazionale. Ma quando sono più grandi, anche alle superiori, fare un salto di classe o due non pregiudica nulla, nel senso non è un problema, ecco, perché già la personalità, insomma, si sta strutturando, quindi è un'altra età. Beh, all'estero ci sono dei casi paradossali all'estero in cui proprio dei ragazzi di 18 anni prendono laurea, aggiungono il dottorato nel giro di un paio d'anni, e proprio questi sono i casi forse limiti, no? Sì, diciamo che ecco, quelli sono casi estremi e eccezionali, ecco, non tutti sono così, assolutamente. Ad esempio nell'articolo della Pristin proprio parliamo di Terence Tao, che ha fatto proprio questo tipo di percorso, che però è stato quello proprio che gli ha consentito di poter approfondire e studiare più rapidamente degli altri, quindi arrivare a dei risultati di eccellenza così presto, perché poi la matematica è uno di quegli argomenti che anche, diciamo, si brucia abbastanza presto, quindi i risultati solitamente i grandi matematici li ottengono sempre prima dei 40 anni. Lui è ordinario di matematica di un qualche ramo della matematica a Princeton, da quelle parti lì, no? Sì, a 27 anni, 20... non ero diventato ordinario, sì, cosa da noi impensabile, perché praticamente a 27 anni non si è neanche finito il dottorato. Da noi impensabile, anche per anche altri per motivi, ma questo chiudiamo e apriamo la parentesi. Va bene, grazie dottoressa, e insomma ci faccia sapere come andranno le cose più avanti, perché insomma qualcosa si sta muovendo. Sì, sì, sì, noi abbiamo tanti genitori che sono interessati, facciamo tante attività anche nelle scuole e io credo che poco alla volta questo interesse che sta partendo dal basso salirà e ci consentirà di dare una spinta e dare delle risposte a questi problemi. Grazie, buon lavoro. Vi ringrazio, buona serata. Balaur Bondoc è stato definito in lingua rumena, significa drago tozzo, anche drago tarchiato. E la definizione ci arriva da alcuni paleontologi rumeni, appunto, che hanno studiato attentamente i resti di un velociraptor. Sì, qualcosa di simile a quelli che abbiamo tutti visto, i velociraptor spettacolarmente ricostruiti in Jurassic Park. Vi ricordate i due bambini inseguiti da questi animali nella cucina della rest house del parco? Ma si tratta di una versione europea del dinosauro, risalente all'ultimo periodo della presenza dei grandi sauri sulla Terra, circa 200 milioni di anni fa. In quell'epoca ci fu un innalzamento delle acque dei mari e il nostro continente si trasformò in un arcipelago di grandi isole. A quel tempo la Romania era un'isola, infatti. E da altre parti invece la Terra aveva grandi continenti nonostante il sollevamento dei mari. Aree territoriali relativamente piccole svolgono una funzione particolare nell'evoluzione delle specie viventi, per esempio sulle loro dimensioni. Balaur Bondoc era sensibilmente più piccolo dei colleghi continentali, intorno a un doppio di tacchino era. Ma anche altri sauri dell'Europa di quei tempi dovevano essere, ce lo raccontano i resti, di ridotte dimensioni, intorno alla mucca odierna. I paleontologi dell'Università di Bucarest ci dicono che il drago tozzo aveva delle zampe posteriori molto sviluppate, dotate di una muscolatura potente, con veri e propri uncini su due dita di ogni zampa, quattro armi micidiali, molto probabilmente utilizzate con una modalità tipo kickboxing, suggeriscono i ricercatori con un'immagine divertente. Per chi non sa di che cosa si tratta, il kickboxing è quella specie di box nella quale oltre ai pugni contendenti si tirano pure dei robusti calcioni. Solo che Balaur non sembra proprio avesse arti anteriori minimamente significativi, zampe piccole insomma, eppure prive di una muscolatura minimamente significativa. Analizzando gli scheletri oggi i paleontologi sono in grado di capire molte cose su come gli animali preistorici usavano il loro corpo. Se le zampe, come vi ho detto, erano molto potenti, i piedi erano piuttosto piccoli, quelli di Balaur, e questo è un dato che ha strettamente a che vedere con la velocità dell'animale. Infatti questo velociraptor ce lo dobbiamo immaginare molto veloce, molto rapido, agile nella sua movimentazione. Saltava addosso alle prede con le due zampe posteriori e con gli uncini le finiva. Non solo, è molto probabile che nemmeno per staccare i pezzi delle malcapitate membra delle prede usasse le zampe anteriori. Nella hit parade americana del 1951, ai primi posti per diversi mesi ci fu questo brano cantato da Nat King Cole, uomo di colore, star dello spettacolo, che però quando suonava nei locali di Las Vegas doveva entrare dalle cucine perché ai neri non era concesso l'ingresso principale. Unforgettable, il titolo del brano, ovvero indimenticabile. E nella storia che stiamo per raccontarvi, la dimenticanza regna sovrana. Questa storia, che vi racconta Sara Occhipinti, inizia così. C'è una foto sulla mia parete di una donna che non ho mai conosciuto. L'angolo sinistro dell'immagine è strappato e tenuto insieme con il nastro adesivo. Lei guarda radiosa verso la macchina fotografica e sorride. Le mani sui fianchi, il vestito perfettamente stirato, le labbra di un rosso vermiglio. È il 1940 inoltrato e lei non ha ancora compiuto i 30 anni. La sua luminosa pelle scura e liscia, i suoi occhi ancora giovani e ridenti, inconsapevole che un tumore stava crescendo dentro di lei. Un tumore che avrebbe lasciato i suoi 5 figli senza madre e che avrebbe cambiato il futuro della medicina. Sotto la foto, una scritta riporta il suo nome, Henrietta Lacks. Così inizia il libro della giornalista americana Rebecca Skloot, che dopo 10 anni di ricerche ha pubblicato recentemente La vita immortale di Henrietta Lacks. Henrietta si spense nel 1951 nell'ospedale di Baltimora a causa di un tumore alla cervice uterina. Prima che morisse, un chirurgo asportò, senza avvisare la paziente, come si usava allora, un campione del suo stesso tessuto tumorale e lo analizzò in laboratorio. Capì subito che si trattava di cellule straordinarie. Gli scienziati, infatti, avevano provato per decenni a mettere cellule umane in coltura, ma senza successo. Morivano tutte. Le cellule di Henrietta erano differenti. Riproducevano un'intera generazione ogni 24 ore e non si fermavano mai. Sono le prime cellule umane immortali mai cresciute in un laboratorio. Si chiamano HeLa, come le iniziali del nome della sfortunata donna che le ha generate. Le HeLa sono da decenni una risorsa inestimabile per la ricerca scientifica. Maria Luisa Lavitrano, direttrice del laboratorio di medicina molecolare dell'Università di Milano Bicocca, ci spiega perché. Le cellule HeLa sono state le prime cellule umane immortalizzate e hanno rappresentato una grandissima risorsa per la ricerca scientifica. È una linea cellulare che è stata isolata e propagata per la prima volta da George e Margaret Gay nel 51. Queste cellule sono importantissime, intanto perché sono delle cellule naturalmente immortalizzate. Immortalizzate significa che possono essere propagate in vitro indefinitivamente, nel senso che non muoiono mai, non vanno incontro al fenomeno della senescenza, possono essere congelate e poi scongelate. E ormai è dal 1951 che sono utilizzate nei laboratori di tutto il mondo. La particolarità di queste cellule è che sono delle cellule che non hanno un normale corredo cromosomico, hanno 82 cromosomi e quindi hanno molti cromosomi in più rispetto a quelli dei genomi delle cellule normali, e infatti hanno 4 copie del cromosoma 12, 3 copie dei cromosomi 6, 8 e 17. E queste sono delle caratteristiche genetiche che conferiscono una particolarità a queste cellule e poi il fatto che siano immortali. L'immortalizzazione in particolare poi è dovuta alla mutazione di un enzima speciale che si chiama telomerasi che consente alle cellule di non invecchiare mai. Oggi sappiamo perché c'è questa particolarità delle cellule HeLa, perché le cellule HeLa, come molte cellule provenienti da tumori della cervice uterina, sono delle cellule infettate da un virus particolare che si chiama papillomavirus, e questo virus conferisce l'immortalizzazione alle cellule. Ma chi era dunque Henrietta Lacks? Fino a pochi anni fa nessuno conosceva la sua storia. I suoi stessi familiari erano all'oscuro di quanto le cellule HeLa fossero utilizzate e studiate nei laboratori di tutto il mondo. Per anni i figli, in seguito alla morte di Henrietta, sono stati sottoposti a controlli e prelievi ospedalieri. I medici, sfruttando lo scarso livello di istruzione della famiglia Lacks, dicevano loro di voler controllare se avessero ereditato la malattia della madre. In verità, cercavano di capire se possedessero anch'essi quelle cellule speciali. Oggi conosciamo questa storia grazie alla giornalista Rebecca Skloot e al suo libro. La curiosità dell'autrice verso questa insolita vicenda nasce tra i banchi del liceo, quando il professore di scienze, raccontando alla classe della scoperta delle cellule HeLa, menziona il nome di Henrietta, ma non sa aggiungere altro. Nessuno era mai riuscito ad avere ulteriori informazioni sulla donna dalle cellule immortali. Dopo una difficile ricerca, durata anni, nella quale per molto tempo Rebecca Skloot non ottiene risultati, ecco che i familiari sono individuati. L'autrice entra in contatto con loro e finalmente riesce a svelare la vera identità di Henrietta Lacks. Sentiamolo dalle parole della Skloot. Apparteneva a una famiglia afroamericana molto povera e lavorava in una piantagione di tabacco. Madre di 5 figli, morì quando aveva 31 anni a causa di un cancro alla cervice. È stata una delle più importanti figure sconosciute della medicina mondiale, ma lei non lo ha mai saputo. Ma in quale campo della medicina le sue cellule sono state così rivoluzionarie? Maria Luisa Lavitrano. Le cellule ILA sono state veramente importantissime per la ricerca, intanto perché sono state le prime cellule ad essere messe in cultura e a sopravvivere in cultura anche in condizioni estreme, per esempio con poco mezzo di cultura, piuttosto che poco ossigeno, pochi nutrienti e così via. Sono state utilizzate negli esperimenti per lo sviluppo del vaccino per polio. Sono utilizzate oggi in tantissimi esperimenti, sono state utilizzate nei primi esperimenti per mettere a punto per esempio le tecniche di clonazione, anche le tecniche di in vitro fertilization, insomma sono delle cellule che sono molto molto utilizzate e che soprattutto hanno questa particolarità di non invecchiare mai. Le cellule tumorali sono delle cellule che durante il processo di trasformazione neoplastica differenziano. In realtà sono delle cellule che sono regredite ad uno stadio, diciamo così, un pochino più primordiale, quindi non sono cellule differenziate. Per quello sono molto plastiche, cioè possono essere utilizzate in campi differenti per fare diversi tipi di esperimenti. Le cellule ILA hanno fatto il giro del mondo, tra laboratori, ospedali e aziende farmaceutiche. Non solo, sono state portate anche nello spazio, come racconta Rebecca Skloot. Le cellule di Henriette Lex sono state usate per centinaia di migliaia di esperimenti, come quelli per testare il vaccino della poliomielite prima che venisse usato sulle persone, o quello nello spazio per vedere come le cellule umane reagivano alla gravità zero, fino alla mappatura dei primi geni. Sono state usate anche per sviluppare alcuni dei principali farmaci antitumorali, come il tamoxifen. Lasciatemi dire che il range di ricerche per cui sono state usate è semplicemente incredibile. Una provetta da 100 microgrammi di cellule ILA costa oggi più di $100. Se pensiamo che in questi 60 anni sono state riprodotte più di 50 milioni di tonnellate di queste cellule, il ricavato avrebbe fatto degli eredi di Henrietta la famiglia più ricca del mondo. Invece, le cellule originali furono prese senza il consenso di Henrietta e neanche una piccola, minima parte dei proventi che ne derivarono fu devoluta alla sua famiglia. Oggi Henrietta giace a Clover, in Virginia, in una tomba senza lapide. Per i figli e i nipoti, ammalarsi è ancora un lusso, come racconta uno dei suoi figli. Ci sentiamo molto amareggiati. Le cellule di mia madre sono state usate in tutto il mondo per scopi scientifici e la copertura sanitaria che noi abbiamo è zero, per me e per tutti i miei fratelli. Zero, me e mio fratello. Il libro La vita immortale di Henrietta Lacks, non ancora pubblicato in Italia, sta facendo conoscere a tutti la storia di questa donna che di fatto ha cambiato le sorti della medicina. L'autrice ha istituito una fondazione per onorarne la memoria e per assicurare delle borse di studio ai suoi nipoti. Così la ricorda ancora uno dei suoi figli. Lei era una donna generosa e io sono felice che mia madre abbia contribuito così tanto alla ricerca. Era generosa e continua ad esserlo. Henrietta Lacks vive ancora oggi. Unforgettable. That's what you are. I discendenti di Henrietta sentono che lei è ancora viva attraverso le sue cellule. Ed è una sensazione più che comprensibile. Certo, perché le cellule ILA sono immortali e il contributo genetico di Henrietta non andrà mai perduto. Sto pensando che la storia di Henrietta è una potentissima dimostrazione di quanto sia stupido il razzismo. Una piccola donna nera che ai suoi tempi si andava in una città e cercava un albergo doveva informarsi di quali erano i pochissimi hotel che ospitavano neri. Questo essere umano con le sue cellule ha curato milioni e milioni di gialli, bianchi, anche neri ovviamente, e pure blu. Mi viene da dire. Va bene, cambiamo argomento. Ci sono delle ricerche che possono sembrare decisamente strane, anche un po' incomprensibili, vogliamo dire inutili, diciamo anche questo, perché no? Magari alcune lo sono davvero, però bisogna stare attenti alle prime impressioni che possono essere ingannevoli. Vi dico allora che qua e là nel mondo, sono pochi però, ci sono dei gruppi di ricerca che si interessano di ciò che potrebbe avvenire nelle città se l'insieme dei rumori che oggi le attraversano scomparissero o fossero profondamente modificati. Ora, è del tutto evidente che certi frastuoni non sono affatto piacevoli, certi edifici che sono collocati in piazze con un traffico infernale oppure in prossimità di percorsi tranviari che in certi punti fanno scattare scambi, beh, insomma, non v'è dubbio che la vita all'interno di queste case sarebbe decisamente più piacevole se detti frastuoni scomparissero. Ma in altri casi la situazione che si verrebbe a creare può porre dei problemi. Le auto elettriche, per esempio, sono praticamente mute. Bello? Sì. Ma è anche vero che noi oggi tutto il nostro inconscio sensoriale, insomma il nostro corpo, è abituato a muoversi sapendo che se un'auto si sta avvicinando, noi in qualche modo la sentiamo, non necessariamente vedendola. Se questo avvicinamento si trasformasse in un lieve soffio, non prenderemo dei tremendi spaventi vedendo il mezzo nel momento in cui a quel punto sarà molto vicino. Oppure ecco un'altra osservazione in tutt'altro campo: la percezione di una realtà esterna a un'abitazione è parte integrante del nostro vivere. Siamo seduti lì in una stanza della nostra casa e dal mondo che sta fuori ci arrivano segnali. Se sono rumoracci, d'accordo, l'abbiamo già detto, è meglio pensare di poterne fare a meno. Ma case con strutture molto insonorizzate e anche progetti urbanistici che separeranno il traffico automobilistico da quello pedonale, così che l'unica presenza di voci umane a quel punto non riuscirebbe a superare le insonorizzazioni. Bene, non si creerà una specie di bolla priva di contatti. Potrebbe essere angoscioso, magari non per tutti, ma per molti sì. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che il livello di rumore massimo che dovrebbe mediamente occupare i nostri spazi non dovrebbe essere superiore ai 55 decibel. Come siamo messi nella realtà, siamo messi male. Questo è certo, spesso e volentieri si va ben oltre. Quindi che il rumore si abbassi, però attenzione ad eliminarlo eccessivamente, ci dicono gli studiosi delle sonorità metropolitane, altrimenti potrebbe venire fuori qualcosa di analogo a quello che è accaduto in certe città costruite ex novo anni fa, se non ricordo male fu così per Brasilia, no? Edifici dalle geometrie meravigliose, ma poi la gente alla sera andava spesso e volentieri nelle baracche delle periferie per trovare un po' di vitalità. Maurizio Catino, si poteva evitare? Sì? No? Ma soltanto con un buon senno di poi, si poteva evitare soltanto una volta conosciuti gli eventi. Maurizio Catino, studioso di errori umani e affidabilità nelle organizzazioni, insegna e fa ricerca all'Università Milano Bicocca e lei è anche autore di Miopia Organizzativa, Edizioni Mulino. In questo libro si parla delle Torri Gemelle e della tragedia dell'11 settembre. Noi nei titoli, Catino, abbiamo scritto Cigno Nero, Cigno Bianco e la tragedia dell'11 settembre. Prima le ho chiesto si poteva evitare, sì o no. Con Cigno Nero e Cigno Bianco questa domanda ha un suo senso. Vuol dirci qualcosa prima in generale su queste due definizioni un po' buffe, ma forse molti magari le sapranno di che si tratta, cigno nero, cigno bianco. Sì, diciamo questa definizione è stata resa celebre da Taleb con l'omonimo libro appunto sul cigno nero. In realtà tutti pensavamo che i cigni fossero soltanto bianchi fino alla scoperta dell'Australia, quando per la prima volta sono stati visti dei cigni neri. La metafora sottostante è che in realtà noi riusciamo a fare previsioni soltanto sulla base di serie storiche, di evidenze di cui siamo a conoscenza. È molto difficile riuscire a fare previsioni in assenza o di informazioni adeguate o di frame adeguati in grado di catturare quelle stesse informazioni. E in altre parole, si usa la dizione cigno nero per indicare degli elementi assolutamente inaspettati che non potevano essere previsti e che quindi si presentano con delle conseguenze in alcuni casi anche catastrofiche, come per esempio nel caso di alcune crisi finanziarie. Esatto, e infatti lei studia tutte queste situazioni, sì, è uno studioso di catastrofi anche, no? Sì, potremmo dire così. Che purtroppo è una disciplina estremamente utile. Sì. Ecco, dopo, già si cominciò quasi subito, insomma, già nella prima settimana, ma insomma nei mesi successivi all'11 settembre ci furono varie disquisizioni sul fatto addirittura che si sapeva tutto, vabbè, ma queste sono state pure fantasie, oppure che si poteva evitare questa tragedia. Ecco, ma su quali elementi si ragiona per dire che effettivamente c'erano dati sui quali ragionare che portavano a una follia come quella? Sì, ma dunque in realtà le informazioni c'erano. Nei 9 mesi precedenti l'attacco alle Torri Gemelle, moltissimi rapporti sia dell'FBI sia della CIA segnalavano minacce di questo tipo, non soltanto le minacce, ma davano delle informazioni in alcuni casi molto dettagliate. Il famoso Presidential Daily Brief, che è questo rapporto che quotidianamente viene consegnato al Presidente degli Stati Uniti, nel caso di allora appunto George Bush, per ben 40 volte nell'arco dei mesi che va da gennaio a settembre del 2001 segnalava minacce da parte di Osama Bin Laden e di Al Qaeda contro gli Stati Uniti. Naturalmente non era precisato né il target né appunto il metodo né tantomeno il luogo dove ciò sarebbe avvenuto. Un'altra importante informazione, per esempio, era la segnalazione che alcuni piloti, alcuni islamici stavano facendo dei corsi per diventare piloti, addirittura il 20° terrorista, perché in tutto furono 19 i terroristi, ma non per amore di irregolarità del numero, ma in realtà il 20° fu arrestato, tal Zakarias Moussaoui, fu arrestato proprio ad agosto, nel mese di agosto del 2001, e sarebbe stato il 20° in questo caso il pilota, non solo terrorista, sul volo United 93, eppure non riuscirono a mettere in connessione questa informazione, cioè che Zakarias Moussaoui stava facendo un corso per diventare pilota, con le continue minacce contro gli Stati Uniti. Allora uno potrebbe pensare che si sia trattato di incapacità da parte del sistema. Sì, perché qui scatta un meccanismo psicologico che può essere molto pericoloso per interpretare le cose, cioè io ho i dati di prima e so perfettamente quello che è successo dopo, mi sembra molto facile dire beh, ma le cose combaciano, erano davanti agli occhi. Esatto. E non è così invece. No, non è assolutamente così. Ormai da circa 30 anni è stato studiato un fenomeno, si chiama hindsight bias, col senno di poi, nel senso che noi dopo gli eventi siamo apparentemente più intelligenti, semplicemente perché riusciamo a ricostruire a partire dall'evento accaduto una serie di relazioni, di nessi causali che altrimenti non sarebbero così chiare ed espliciti prima dell'evento. Cioè, in altre parole, il mondo prima dell'evento, cioè l'evento stesso ci appare prima in qualche modo implausibile, dopo l'evento stesso esso ci appare incredibile. Tutto torna, sì. Ecco, qual è il problema? Che in questo caso le informazioni c'erano, ma mancava il frame per poterle rappresentare, cioè mancava l'idea, il modello, la metafora che in qualche modo potesse dare senso a questa moltitudine di informazioni, altrimenti questa moltitudine di informazioni si perde in un mare ancora più ampio di informazioni e di segnali. Cioè lei dice non c'era nessuna visione sulla possibilità che degli aerei in mano a terroristi potessero entrare dentro dei grattacieli o dentro un luogo così importante come il Pentagono. Mancava l'evidenza di questa possibilità. Esatto, mancava un'etichetta in particolar modo, se vogliamo dire, mancava l'idea dell'uso dell'aereo come arma. Forse ancora più precisamente questo, l'uso dell'aereo come arma. L'uso dell'aereo come arma. C'erano arrivati, se uno legge i rapporti, erano arrivati all'uso dell'aereo con armi, cioè con bombe. Quindi tutta l'attenzione, tra l'altro noi lo ricordiamo sicuramente, tutta l'attenzione non era sul passeggero, ma era sul bagaglio. Sul bagaglio? Sul bagaglio, sì. Quindi l'attenzione fino al 2001, ma questo anche nel sistema del trasporto aereo italiano, l'attenzione era dal punto di vista dei controlli, del checkpoint, era sul bagaglio, cioè non sulla persona. Su ordigni esplosivi nel bagaglio, non sulla persona. Esatto, non sulla persona. E invece, certo, lì la grande e tremenda, geniale idea perversa è stata quella di usare Beh, i kamikaze però, cioè l'attentato suicida era diffuso, non si pensava che si potesse usare l'aereo come uno strumento di attentato suicida. Assolutamente, perché in realtà quella forma, quell'evento veniva etichettato nei loro rapporti come dirottamento. Ora negli Stati Uniti era da circa 10 anni che non c'erano stati altri dirottamenti, quindi eravamo nel 2001, da circa dal 90-91, l'ultimo dirottamento era stato nel 90-91, e comunque le procedure per il dirottamento prevedevano un tipo di risposta ad un evento che sostanzialmente era basato sull'idea da parte dei terroristi di chiedere denaro, liberazione di detenuti o riconoscimento politico, non certo suicidio. Non certo suicidio. Quindi era un evento non presente. Io so che lei ha studiato anche altri grandi incidenti nei quali il meccanismo è un po' sempre lo stesso, cioè ci sono tutti gli ingredienti ma nessuno si aspetta che possa avvenire un certo piccolo evento che però è l'innesco di tutto. Sì, esatto, un po' il problema è questo, cioè noi tendiamo a distinguere i problemi cosiddetti, usando una terminologia anglosassone, in family and out family, cioè quelli in family sono i problemi che noi in qualche modo conosciamo, di cui abbiamo esperienza, gli out family sono quelli assolutamente in, come dire, laterali. Sì, esatto. Il problema è che per questi out family noi non abbiamo una grammatica, una semantica per poterli rappresentare, e quindi o le persone nelle organizzazioni lavorano seriamente e duramente su questo, o altrimenti questi out family potrebbero essere estremamente dannosi. Grazie, questo è vero, se posso aggiungere un'ultima considerazione, sì, non soltanto per queste organizzazioni ad alto rischio, ma per esempio per tutte le organizzazioni commerciali riguardo l'invenzione di nuovi prodotti o la concorrenza. Grazie Maurizio Gattino, buon lavoro. Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori, salve. Monsieur Sarkozy, il presidente francese, è ormai un argomento di attualità pervasiva e quindi è finito anche qui da noi a Möbius. Barbara Gallavotti vi spiega perché. A fine luglio a Parigi si è svolta una conferenza che avviene ogni 2 anni, ogni volta in una città diversa. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti per i fisici delle particelle di tutto il mondo. Per dare un'idea del rilievo dell'incontro, è lì che quest'anno sono stati annunciati i primi risultati degli esperimenti connessi con l'acceleratore LHC al CERN di Ginevra. Ovviamente non si è trattato ancora di dati rivoluzionari, ma insomma l'eccitazione era palpabile. L'importanza dell'occasione non è sfuggita ai politici francesi, al punto che lo stesso presidente Nicolas Sarkozy ha voluto intervenire per dare il benvenuto agli scienziati di tutto il mondo e per cogliere l'occasione di ricordare cosa la scienza rappresenti per la Francia. Alla fine, cosa ha detto il presidente francese? Ha detto qualcosa che nei paesi più competitivi si sente ormai sempre, cioè che la ricerca scientifica rappresenta una priorità strategica per il paese e, cito testualmente, agli spiriti tristi che sostengono che la vostra ricerca è molto lontana dalle emergenze a cui il nostro pianeta deve rispondere, le grandi malattie, la povertà, le necessità di sviluppo, io voglio dire che le emergenze del momento non devono ipotecare le esigenze del futuro. Il sapere unico, le scoperte della ricerca fondamentale, apparentemente più fini a se stesse, hanno a volte portato alle innovazioni più profonde della nostra vita quotidiana. E poi ha continuato. La scienza è un edificio che deve essere completo. Non esistono le applicazioni senza scienza fondamentale. Non ci possono essere dei salti qualitativi nel progredire della conoscenza delle tecnologie senza ricerca fondamentale. E non è cercando di migliorare la candela che è stata inventata l'energia elettrica. È impossibile sbagliare, ha detto Sarkozy. Sono di certo la scienza e la ricerca scientifica che ci aiuteranno a risolvere i problemi dell'umanità. Poi Sarkozy ha continuato, ricordando come la Francia abbia scelto di affrontare la crisi non tagliando, ma aumentando i finanziamenti alla ricerca, perché proprio la ricerca e l'università sono gli strumenti che hanno più probabilità di dare una via di uscita dalla crisi, perché ci permettono di inventare nuove risorse. E quindi è arrivato l'annuncio più atteso. Torno a citare Sarkozy. Lui ha detto: a partire dal 2007, ogni anno il finanziamento per l'insegnamento superiore in Francia è stato accresciuto di 1 miliardo di euro all'anno e il finanziamento pubblico alla ricerca è stato aumentato di 800 milioni di euro. Infine, nel pieno della crisi, abbiamo deciso un piano di investimento di 35 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. 2/3 di questo investimento saranno dedicati all'insegnamento superiore e alla ricerca. 1/3 sarà dedicato a programmi di ricerca applicata nei settori dell'aeronautica, dello spazio, delle energie pulite e della matematica finanziaria. Ecco, queste sono le dichiarazioni di Sarkozy. Devo dire che dichiarazioni di questo tipo sull'importanza della ricerca, seguite da sostanziosi incentivi economici, sono qualcosa che mi capita sempre più spesso di sentire e di vedere in giro per il mondo. In Germania, ad esempio, in epoca di tagli impietosi, gli investimenti e gli incentivi per la scienza sono stati difesi a spada tratta. E proprio nei giorni di vigilia dell'estate, in cui i musei della scienza italiani rischiavano di veder dimezzati i loro già esigui finanziamenti, al Museo della Scienza di Monaco di Baviera mi raccontavano un progetto di totale rinnovamento, generosamente finanziato da un governo, quello tedesco, che riconosce l'importanza del ruolo dei musei della scienza nell'educazione dei giovani. Dalle parole di Sarkozy e dall'esperienza tedesca emerge quella che purtroppo è una scomoda verità. Se si vuole riformare qualcosa che riveste un ruolo strategico per la società, per renderlo più efficiente, beh, allora bisogna prevedere investimenti tanto più cospicui quanto più la riforma deve essere radicale. L'idea che si possa rendere qualcosa più competitivo con i tagli risulta impraticabile, purtroppo, e soprattutto in un settore di frontiera come la ricerca scientifica. Torniamo alle parole di Sarkozy. Inutile dire che sono state apprezzate dai fisici francesi, molto, anche da quelli apertamente non sostenitori dello schieramento politico del presidente. E su questo non c'è da stupirsi, perché se la scienza è una priorità strategica per la nazione, è ovvio che debba essere sostenuta con uguale vigore da tutti gli schieramenti. Poi viene da chiedersi, perché in Italia, in occasioni analoghe, è praticamente impensabile pensare di coinvolgere una così alta personalità politica? Beh, insomma, anche da noi si svolgono incontri internazionali di massimo livello. Mi piacerebbe vedere un presidente del Consiglio italiano intervenire a un congresso per rendere omaggio al lavoro e al ruolo degli scienziati. Sarebbe un bel segnale. E nel caso, ricordo che Sarkozy è arrivato puntualissimo. Anche questo è un modo per dimostrare che il proprio rispetto è concreto. Con il presidente francese, in altre situazioni riceve molte critiche, ma qui non possiamo che dirgli bravo, con il presidente Sarkozy si chiude Möbius di questa settimana. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo fra 7 giorni.